Benvenuti, benvenute, pochi ma meravigliosi, ovviamente. Allora, questa sera qui a Exalge sarà una serata un po' particolare, quindi voi potrete dire c'ero anch'io. Voi vi siete fatti fermare dalla pioggia, felloni, e invece noi coraggiosi siamo usciti di strada in strada e siamo venuti a Exalge a vedere questa cosa che, mi spiace, non la ripeterà mai più, amici cari. È quella che ho chiamato The Milanese Contest, facendo un po' il fighetto milanese ovviamente. Io mi chiamo Davide Verazzani, ho un progetto di teatro in narrazione collegata a fatti storici che si chiama Fatti di Storia, e un giorno ho pensato, ma sarebbe bello parlare di quello che è accaduto nella storia dell'umanità, quel giorno lì, cioè proprio quel giorno in cui io sono qui in scena. L'ho fatto e l'ho chiamato The Contest, perché ho detto, tiro fuori 4-5 cose che sono accadute in quel giorno e le racconto e faccio decidere al pubblico quali sono le più belle. Pensavo che fosse una boiata, devo dire la verità, cioè, sai che grande idea, ma invece la gente si divertiva. E quando mi hanno chiesto, ma perché non fai qualcosa su Milano, cioè la stessa cosa su Milano, e allora l'ho chiamato The Milanese Contest, perché siamo a Milano e dobbiamo essere un po' fighetti. L'idea è questa, innanzitutto, è una specie di Champions League. Visto che il Milan e l'Inter sono andati avanti negli ottavi, possiamo anche dirlo tranquillamente, siamo felici per il Milan, io un po' meno perché non tengo né l'una né l'altra, in cui ci sono 8 luoghi, fatti, storie, vicende che ognuna di esse può essere raccontata per aneddoti, quindi per più aneddoti, che si scontrano a due, quarti di finale, semifinali, finale, e il pubblico sovrano, cioè voi, ecco perché potete dire io c'ero, voi deciderete qual è la storia più bella della storia di Milano. Applauso. Prima di incominciare, svelo un arcano, forse vi siete chiesti, se non me lo siete chiesti, va bene, ve lo chiedo io, che cosa ci fa un tavolino all'ingresso con dei libri? Primo, perché i libri ci piacciono, effettivamente qua ce ne sono parecchi. Secondo, perché la casa editrice Meravigli, che specializzata in libri su Milano, cioè nel senso che fa solo quello, cioè fa solo libri che riguardano Milano e il contado, come diciamo noi milanesi, contado, hanno deciso di supportarmi venendo qui con un banchetto in cui rappresentano quasi soltanto libri collegati alle storie che io racconterò. Che furbi che sono. Però c'è un però. Ovviamente i libri sono in vendita, oltre che in consultazione, ma soprattutto sono in vendita. E chi comprerà almeno 2 libri avrà indietro il costo della tessera, o quantomeno il valore della tessera, cioè avrà uno sconto pari al valore della tessera, che se non sbaglio è 10 euro, se non sbaglio. Quindi insomma, vi invito dopo i miei racconti a fermarvi dagli amici di Meravigli e a chiedere informazioni, a consultare libri e magari a comprarli, che insomma male non fa. Una casa editrice non è un qualcosa che sta in piedi da sola, normalmente sta in piedi quando la gente compra i libri, normalmente. Bene, ora per incominciare. Allora, questa sarà una serata un po' interattiva, vi farò lavorare, ma ahimè sì, ma lavorare in termini molto semplici, molto banali. Però per incominciare creiamo gli accoppiamenti. Domani ci saranno i sorteggi degli ottavi di Champions League e di Europa League, e oggi stasera facciamo i sorteggi del Milanese Contest, ok? Io ho qui 8 foglietti, per cui io ne darei 2, 4, 5, ma se ne darei un po' a caso. Ne farei scegliere un po' a caso. 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va, siamo perfetti. Va, non arrivo neanche là in fondo. Mi fermo lì. Allora, così creiamo gli accoppiamenti. Le donzelle a questo tavolo sono rimaste fuori, purtroppo, perché avevo solo 8 biglietti. Ma non, va bene, ma poi troverò modo sicuramente di coinvolgervi. Non è un problema, non vi preoccupate. Allora, vediamo un po' gli accoppiamenti. Io accoppierei, voi siete già una coppia, per cui appunto accoppiamo quei due. Vediamo un po'. Ci dica quello che c'è scritto. Apriamo il foglietto e vediamo che c'è scritto. Vie d'acqua contro? Succede un 48. Chissà di che cosa parlerà vie d'acqua, chissà di che cosa parlerà succede un 48. Ok. Poi c'era una persona lì, se è andata via. Mi scompigliate già tutto. Torna? Allora andiamo a loro due, va, che mi sembrano più fissi. Da Expo a Expo. Probabilmente parlerà dell'Expo. Rocktown, questo mi piace come titolo, no, l'ho scelto io, ma comunque no, ecco. E dunque, gli altri due facciamo voi due, allora? Quindi, la fabbrica eterna e? Nuovo Regio Ducal Teatro. E voi due? Io la nevicata dell'85. Non c'eri? Sì, potevi evitare di dirlo. Grazie. Arrivi e partenze. Bene, questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale, come Juve, Milan e cose del genere. Ok? Ora io racconterò un aneddoto per uno. Da dove incomincio? Incomincio dalla nevicata dell'85 e arrivi e partenze. Ok? E alla fine dei due voterete quello che passa il turno. Quello che passa il turno avrà un altro aneddoto, un altro pezzo dell'aneddoto, diciamo, da raccontare, della storia. Quello che invece non passa il turno è non lo sapete mai come va a finire. Però d'altronde il pubblico è sovrano. Qua a Milano nevica ormai, non nevica più, direi, cioè nevica di rado, stasera ha piovuto e tutti hanno detto ma cos'è questa pioggia? Quindi a Milano la neve, insomma, è un concetto un po' così. Però noi possiamo dire di avere visto una nevicata vera, tu non l'hai vista. Noi abbiamo vissuto la nevicata dell'85, la più grande nevicata del XX secolo, almeno per quel che riguarda Milano. È una nevicata che inizia il 13 gennaio, ma che in realtà per noi milanesi inizia qualche giorno prima, il 6 gennaio, cioè quando a Roma cadono 15 centimetri di neve e la città si paralizza completamente. Ai tempi la rivalità Milano-Roma era altissima, anche adesso un po', ma ai tempi veramente terribile. I filmati in TV della città eterna bloccata, gli autobus dell'ATAC con le catene per 15 centimetri di neve sporca, ci fanno ridere tantissimo. Da noi potrebbe venire giù anche un metro, non capiremmo niente. 7 giorni dopo, a Milano, incomincia a nevicare. Piano piano, continua, implacabile. Resta giù subito e si attacca, fiocco dopo fiocco, fino a cancellare il paesaggio. Smette 96 ore dopo. E a terra ci sono 90 centimetri. Non è un metro, ma quasi. E la città si blocca completamente. Anche perché noi milanesi, che non vogliamo passare per i soliti vittimisti, al lavoro ci andiamo lo stesso. Non è che stiamo a casa. Qui ecco file e file di automobili, perché si va al lavoro in automobile ovviamente, bloccate in mezzo a vialoni che sembrano enormi piste da fondo. Autobus stracolmi che si fermano perché una ruota è finita in una buca nella neve, slitta, non riesce a risalire e allora tutti giù dall'autobus a spingere. Non se lo ricorda? Plotoni di persone che, visto che bus e auto proprio non sono mezzi sicuri, scelgono di raggiungere l'ufficio a piedi. 10 chilometri nella steppa siberiana. Plotoni di persone, curvi sotto la neve, sotto i fiocchi, sbuffanti, gelate, che camminano nel buio del mattino sotto zero lungo i marciapiedi in ordine sparso, ma tutte raggruppate nel bianco che toglie i contorni. I bambini godono come dei matti, ovviamente, ma un po' perché non si va a scuola, un po' perché si può uscire a giocare a palle di neve, a creare pupazzi giganteschi, che tanto di neve ce n'è un sacco, a rotolarsi giù dal Monte Stella, seguiti da sciatori felici che manco si trovassero sulla Strife di Kitzbühel, gente che ha preso lo sci di sci e si è gettata giù dal Monte Stella. L'ancora di salvezza è la metropolitana. Non è ancora estesa come oggi, mancano la linea 3 e la linea 5. La linea 4 non c'è ancora, per cui... Però il suo lavoro lo fa. Scarazza in giro per la città migliaia di persone che alla bella e meglio riescono a sopravvivere. Quando, nell'atmosfera grigia, in mezzo al mulinare furibondo dei fiocchi, si scorgono i pali con la scritta M bianca su fondo rosso, sembra di aver visto un'oasi nel deserto. si corre felici sperando che non sia un miraggio, perché in quel casino potrebbe anche essere un miraggio. E sottoterra nel calduccio si dice: eh beh, noi la metropolitana ce l'abbiamo, mica come a Roma, che la metro c'è ma è come se non ci fosse e fa schifo. E intanto i vagoni in realtà sembrano gli interni di una funivia. Quando la neve smette di scendere dopo 4 giorni, Milano sembra una città dell'Alaska. E così rimane per giorni, un po' perché fa freddo e la neve diventa ghiaccio, un po' perché per togliere velocemente la neve dalle strade vengono usati escavatori che la neve la accumulano sui marciapiedi, creando montagne vere e proprie fra le quali si destreggiano i pedoni. E un po' perché il bando per gli spalatori avventizi nell'ottobre dell'anno prima era andato deserto. Beh, non nevicava così tanto. E il comune non sa chi chiamare a togliere i cumuli di neve. Almeno quest'ultimo problema però viene risolto subito. Vengono affissi cartelli dappertutto, ai tempi non c'era internet, per la ricerca di spalatori. Danno 60.000 lire al giorno. Una cifra che per me, ventenne squattrinatissimo universitario, è enorme. E quindi rispondo subito. Una mattina alle 7 mi presento in uno stanzone enorme dell'AMSA dalle parti di Maciachini. Lì dentro ci sono 2 categorie di persone: studenti come me e disoccupati cronici che vivono di espedienti e lavoretti raccattati qua e là. Ne conosco uno di questi, avrà gli anni che ho io adesso, ma mi sembra vecchissimo. Mi dice che un paio di giorni prima è andato a togliere il ghiaccio dagli scambi alla centrale. È un lavoro facile, pagano bene, però bisogna essere lì alle 4 del mattino. Faceva un po' freddo, effettivamente. Mi dice: mi sembra un tipo in gamba, perché domani non andiamo insieme? Magari se hai la macchina mi potresti anche dare uno strappo. Io rabbrividisco, guardando il suo cappotto liso che ha visto inverni e momenti migliori, gli dico: no grazie, io alle 4 del mattino dormo, grazie. I tizi dell'AMSA ci devono dividere in squadre, 6 o 7 persone al massimo. Inspiegabilmente, nonostante abbiano l'elenco dei presenti, ci mettono un sacco a creare le squadre, ma circa 2-3 ore. E usciamo da quell'antro al neon alle 10:30 del mattino, seguendo un capo squadra che ci porta in piazza d'Ergano e la prima cosa che fa è entrare in un bar a prendersi un caffè. Ma noi non possiamo, che sennò lui che figura ci fa? Noi dobbiamo iniziare a lavorare. Si spala per un giorno intero, con il caposquadra che ci guarda, ne fuma una dopo l'altra, non spara mai e ogni tanto scompare in un bar a prendersi un caffè. Vado avanti così per 10 giorni, di aneddoti ne potrei raccontare, ma alla fine il ricordo che mi resta maggiormente attaccato è che con i soldi guadagnati grazie alla nevicata dell'85 mi pago per la prima volta le vacanze da solo. E che vacanze, il mio primo Interrail. Che non so se i ragazzi presenti sanno che cos'è l'Interrail, ecco, però, ecco. Ma l'Interrail dove spendevi 250.000 lire e andavi in giro per tutta Europa, Turchia e Marocco compreso. Vabbè, ma non voglio fare il boomer troppo a lungo, per cui andiamo con arrivo e partenze. L'avversario. Oh, è il 1 luglio del 1931. Ulisse Stacchini è fermo nel piazzale assolato, intorno a lui gerarchi fascisti, la giunta di Milano al completo, Monsignor 13 vicario dell'arcivescovo e migliaia di persone urlanti. Arriva il ministro delle comunicazioni, Costanzo Ciano. Mussolini non viene perché è offeso per l'assenza dell'arcivescovo Schuster, che non c'è perché è offeso per le persecuzioni fasciste contro l'Azione Cattolica. Vabbè, so, ci parlino magari, ecco. Il ministro prende una forbice e taglia un nastro tricolore. È fatta, la nuova stazione centrale è inaugurata. Ulisse Stacchini quasi sviene per l'entusiasmo. Perché? Perché il buon Ulisse, che ha 60 anni, è un architetto di Firenze, è l'ideatore della stazione. E quindi è molto felice, ma soprattutto perché finalmente la stazione può prendere vita 25 anni dopo la posa della prima pietra. Quindi non è che facciamo le cose in lungo solo adesso. Sì, l'idea di costruire una nuova stazione centrale viene infatti nel 1906, un po' sull'onda dell'Expo che si tiene proprio a Milano in quegli anni e ha come tema i trasporti. Ecco, si diceva, un po' perché la vecchia stazione centrale, che si trova a 600 metri più a sud, dove oggi c'è Piazza della Repubblica, non ce la fa più. Viene scelta l'area per la nuova stazione centrale, dove da una ventina d'anni c'è un bellissimo ippodromo con annessa pista ciclistica, la cui zona centrale fra l'altro viene usata per il tiro a volo e da poco anche per le partite di un nuovo gioco, il calcio. Un gioco strano che sta lentamente prendendo piede, tanto che una squadra cittadina, il Milan, ci gioca ogni domenica. Ma si sa come funziona qui da noi, tanto mettiamo la prima pietra e vabbè, e poi vediamo, ecco. Infatti intanto il trotto viene sfrattato e riposizionato dalle parti di via Padova. E poi viene indetto un concorso, cui partecipano 17 progetti, che però vengono scartati tutti quanti misteriosamente. Si blocca tutto per 6 anni. Nel 1912 c'è un altro concorso, con la richiesta di inserire sulla parte davanti una grande galleria per l'arrivo delle carrozze, sulla falsariga delle stazioni di Lipsia e di Stoccarda. A questo concorso partecipano in 43. Non sono pochi, eh? Viene vinto da Ulisse Stacchini, con un bozzetto a metà fra il Liberty e l'Art Deco. È ispirata alla Union Station di Washington e con Lipsia e Stoccarda non c'entra un tubo, però vince lui. Ma scoppia la guerra, fino al 1918 non si può fare niente, poi continui di pensamenti, fa la più grande, un po' più alta lì, più luce là, poi toglie le pensiline, fa le arcate, insomma il povero Stacchini deve rifare il calco 50 volte praticamente. Quando nel 1922 prende il potere Mussolini, Stacchini teme che gli facciano rifare tutto per l'ennesima volta, e beh, ma incredibilmente invece gli danno l'ok. Anche perché nel 1923 un incendio semidistrugge il salone principale della vecchia stazione, e ricostruirla costerebbe più che farla nuova, per cui ok, bisogna muoversi. Nel 1925 iniziano i lavori di una costruzione che con le idee architettoniche del nascente regime fascista c'entra ben poco, perché è così piena di fregi, di sghiribizzi, di mosaici. Unica concessione alle idee della dittatura è l'uso del marmo. Perché il marmo? Ma siccome costa, in realtà il marmo viene usato solo fino all'altezza occhi. Poi più sopra si usa un cemento che sembra marmo, ma costa molto meno. Fregi e statue sono tantissime, ci sono due grandi chimere, una a sinistra e una a destra, vigilano sull'ingresso dei binari alle arcate, due statue di Pegaso, una lupa che allatta Romolo e Remo, i leoni di San Marco, il biscione Visconteo, un'aquila simbolo della città di Trento, vabbè, una fontana con l'acqua che esce dalla bocca di un'enorme faccia umana, mosaici decorativi, lampade Liberty, naturalmente fregi di fasci littori un po' ovunque, e d'altronde il periodo è quello. La cosa strana è che ci sono ancora oggi. Insomma, quello che Ulisse Stacchini vede inaugurarsi in quel fatidico 1 luglio 1931 è un'opera imponente, e c'è davvero di che esserne soddisfatti. Caspita, le arcate che l'hanno costretto a mettere al posto delle pensiline sono alte 34 metri. 34 metri, cioè. La lunghezza della galleria dei binari è di 340 metri, la facciata è lunga in orizzontale 200 metri, l'area della stazione è di 66.500 metri quadri, 24 binari, oh, 24 binari. Nasce una stazione pazzescamente all'avanguardia. E pazienza se quasi tutti faranno notare che va bene la maestosità, va bene l'altezza, ma insomma arrivare ai binari non è facile, ci sono delle scalinate enormi con un sacco di gradini in marmo, quelli sì, che sono anche scivolosi, non è agevole, nemmeno se sei un nobile o un riccone, con le valigie portate dai servi, comunque è complicato, a parte Sua Maestà. No, Sua Maestà e la sua corte hanno una sala d'attesa riservata, bellissima, quella sì tutta in marmo, anche oltre l'altezza occhi, a cui si accede da un ingresso nella zona sud-est, e ai binari però i reali possono arrivare in ascensore, i comuni mortali invece devono arrivare a piedi. L'ascensore poi, le scale mobili poi le metteranno negli anni 50. E il fatto che mettono le scale mobili è solamente il primo di una serie di cambiamenti, alcuni geniali, altri distruttivi, che mutano per sempre il monumento. Il tutto sotto gli occhi vigili, da lassù, di Santa Francesca Cabrini, patrono dei migranti, a cui viene dedicata da subito la stazione. C'è una targa che lo ricorda. Dice testualmente la targa: da questi binari tante volte si avventurò per le strade del mondo Francesca Cabrini. Peccato che la ragazza sia morta nel 1917, cioè 14 anni prima dell'inaugurazione della stazione. La targa è stata messa lì, tra l'altro, non chissà quando, ma nel 2010 il sindaco di Milano era Letizia Moratti. Grazie. Volete sapere come va avanti la storia della... perché di storie sulla stazione? Di storie sulla stazione ce ne sono tantissime. e un po' forse anche di storie sulla nevicata dell'85, ce ne sono tante. E sta a voi adesso, in che modo? Con l'applauso. Allora, chi vuole conoscere altre tante piccole storie sulla nevicata dell'85, applauda. Ho capito, basta però. Cioè, non è che siete in tre e allora parlate per 20 minuti e siete in 500. Chi vuole invece conoscere i misteri della stazione centrale? Mi sembra che arrivi e partenze abbia vinto. E quindi, là in fondo, giusto? Mi spiace, Lovica. Una volta che porto un'amica, però, porca miseria. Vabbè, perde subito. Allora, la nevicata la mettiamo qua e la stazione la mettiamo qua. Ora, un altro accoppiamento. La coppia là in fondo, non me ne ricordo più. Rocktown. Da cosa incominciamo? Expo. Bene. Mi piace questa Expo. Allora, quando è il 31 marzo del 2008... il Bureau International des Expositions, non ho mai fatto francese in vita mia, si sente, assegna la realizzazione dell'Expo 2015 a Milano, che batte per 86 voti contro 61 la turca Izmir, volgarmente detta Smirne. Secondo me, molti fra i milanesi che osservano le immagini di gioia della delegazione italiana, fra cui il capo del governo Prodi e la sindaca di Milano Moratti, torna sempre Moratti, ragazzi, ha fatto qua solo 5 anni, tra l'altro, ha fatto un sacco di e molti dei milanesi però si sono chiesti, ma l'Expo, ma se l'è, si mangia? E in effetti non è che l'Expo nei suoi 180 anni di vita sia assurdo a simbolo di qualcosa di leggendario, o anche solo di facilmente riconoscibile, che so, come le Olimpiadi, il Festival di Cannes, i Mondiali di Calcio, che tutti sanno bene cosa sono. E questo nonostante il fatto che gli Expo passati ci abbiano lasciato in eredità monumenti importanti, per esempio il Crystal Palace di Londra, poi distrutto da un incendio nel 1936, ma in grado di dare il nome a un intero quartiere e anche a una squadra di calcio che esiste ancora. La Tour Eiffel di Parigi, l'Atomium di Bruxelles. Ma quanti sanno che sono stati costruiti per i rispettivi Expo questi monumenti? E forse perché manca la competizione. Quello che nel 1851 il principe Alberto, consorte della regina Vittoria, intende organizzare per la prima volta a Londra è infatti una semplice esposizione, Expo, delle opere dell'industria delle nazioni, come celebrazione delle moderne tecniche industriali. Oh, si va lì, si fa vedere cosa sono capaci di fare i propri ingegneri, si guarda quel che fanno gli altri, si fa networking e poi si viene via, basta. Non si vende, non è neanche una fiera campionaria. E infatti ci vanno in tanti. 41 espositori, il primo anno, nel 1851, tra cui l'Impero Ottomano, lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Non so cosa faceva lo Stato Pontificio a Londra, cosa portava. Cacio e pepe forse, non lo so, vabbè. Ma non ce l'ho con i romani, non ce l'ho anche, certo. Insomma, un grande fumo negli occhi, una splendida occasione per fare networking, appunto, tipicamente inglese, mi verrebbe da dire, ma se non c'è vendita, se non c'è un vincitore, questa è una roba un po' fine a se stessa, che quando c'è riempie gli occhi di milioni di spettatori, come se un grande spettacolo di circo in pratica, ma che viene presto dimenticata appena si spengono le luci. D'altronde scommetto che molti saprebbero snocciolare le sedi delle Olimpiadi moderne dal 1896 a oggi, non fatelo, magari dopo lo vediamo. E che nessuno saprebbe dire dove si sono svolte le Expo dopo quel 1851. E soprattutto ben pochi saprebbero che in Italia di Expo universali riconosciute internazionalmente dal Bureau ce ne sono state soltanto 3. E 2 di queste a Milano. La terza? Vedi romani. Torino. Chi è che l'ha detto? Bravo, Torino. Grande. Ma perché lo sapevi o ha buttato? No, è venuto in mente qualcosa più o meno. Con qualcosa più o meno spesso ci si azzecca. E in quel 31 marzo del 2008 forse non c'è più nessuno in vita fra quelli che hanno ammirato la prima Expo svoltasi in città, ma ci sono i figli e i nipoti che avranno ascoltato i loro racconti. Si svolge dal 28 aprile all'11 novembre del 1906. ogni Expo ha un tema, e anche quello del 1906 ce l'ha, l'ho detto prima tra l'altro, è quello dei trasporti, industria che in Italia è particolarmente sviluppata, tanto che l'anno precedente è stata inaugurata la Galleria del Sempione, un gioiello della tecnica che con i suoi 19 chilometri per 76 anni resterà il traforo ferroviario più lungo del mondo. Olè. È per questo che l'Expo si fa a Milano. È la città terminale della strada del Sempione, un tracciato antichissimo, usato già nel Medioevo, da Napoleone e così via. E soprattutto è la città che ha investito nella costruzione del traforo 2 milioni di lire, cifra pazzesca per l'epoca. Naturalmente per l'Expo mancano i soldi. Vabbè, è un classico. Si rimedia con un formidabile crowdfunding. Fin dei conti, qualche decennio prima i newyorkesi se l'erano inventato il crowdfunding, riuscendo a finanziare in questo modo la costruzione della Statua della Libertà. Perché non fare lo stesso per l'Expo? In pochi mesi si raccimolano 6 milioni di lire. Altri 7 li mette lo Stato, con 13 milioni in cassa, equivalenti a circa 50 milioni di euro. Beh, insomma, mica male, si parte. Dove lo si fa l'Expo? Beh, ovvio. Alla fine della strada del Sempione, siamo qua per quello, che guarda caso termina proprio dove c'è un bel parco dietro al castello Sforzesco, restaurato da poco. Ai tempi la riserva di caccia degli Sforza, adesso gli diamo un bel nome, Parco Sempione, strada del Sempione, c'è un parco, Parco Sempione, tac. Lì dentro, lì intorno, si costruiscono un po' di padiglioni, ma il posto è piccolo, non basta, i paesi che vogliono partecipare sono 40, da tutto il mondo, anche il Regno di Persia, il Guatemala, forse non sanno neanche bene dove è Milano, però vogliono venire. Gli espositori, i paesi sono 40, ma gli espositori sono 35.000. E dove li mettiamo? Un altro posto si trova nella piazza d'armi, tutta vuota, a un paio di chilometri a nord-ovest. È lì che vengono messi i padiglioni dei paesi espositori, a parte il Canada, che non si capisce perché vuole stare al Parco Sempione da solo. I due luoghi espositivi però sono lontani, a piedi non ci sono tanti tram, le automobili praticamente non esistono, no problem. È una fiera dei trasporti? E allora viene costruita ad hoc una bella ferrovia sopraelevata elettrica tra il parco e la piazza d'armi. Un viaggio ogni 5 minuti al costo di 10 centesimi, che sarebbero 42 centesimi oggi, quindi un costo molto popolare. I padiglioni sono quasi tutti in legno, prefabbricati. E anche per questo che ad agosto, tra l'altro, un incendio sviluppatosi in alcuni padiglioni del parco riduce in cenere in pochi minuti quello della fabbrica del Duomo, distruggendo l'unico disegno esistente, l'unico esemplare esistente del disegno originale del 1653 della facciata della cattedrale. E che caspita! Le attrazioni sono tantissime. Padiglione dell'Egitto ricrea una vera e propria via del Cairo con il cammello annesso. In quello cinese i cuochi strabiliano tutti, cucinando pinne di pesce cane arrosto con prosciutto. Al parco c'è una sezione dedicata al volo, con l'esposizione del primo dirigibile della storia dell'aviazione italiana, costruito l'anno prima da uno scienziato di Vicenza. E poi c'è l'Automat, il primo ristorante self-service della storia. Soprattutto c'è un grande toboga con una rampa alta 70 metri che getta automobili in un lago di 2000 metri quadri. Ma oltre a queste attrazioni un po' da sagra, ci sono anche mostre e padiglioni tematici di alto rilievo. C'è un padiglione dedicato per esempio alla pace universale, tenacemente voluto da un tizio strano, un anziano giornalista milanese di origini aristocratiche, Teodoro Moneta. In questo padiglione si terrà il 15° congresso sulla pace mondiale. In 6 mesi l'Expo viene visitata da 5 milioni di persone. Un numero enorme, visto che gli abitanti di Milano sono solo 500.000. E gli spostamenti non sono certo così agevoli come ora. Come tutte le altre Expo, quando le luci si spengono, tutto si dimentica. E viene smontato. E forse rimontato altrove. Nulla rimane. Nulla. Di quelle costosissime attrazioni che avevano promesso essere permanenti, invece vengono tolte. Nulla. No, ma è quasi nulla. Innanzitutto rimane un grande parco, che fino a quel momento veniva poco utilizzato, che diventerà il parco milanese per eccellenza, il Parco Sempione. Una piazza d'armi che terrà memoria dei padiglioni tematici, visto che alcuni anni dopo diventerà la sede della fiera campionaria. Non c'è più manco quella, c'è City Life, è qua dietro, e vabbè. E un'unica costruzione in muratura che levare costa più che mantenere, quella rimane, è l'acquario. E poi rimane un premio. Un premio dato alla cocciutaggine di quel Teodoro Moneta, che chissà quante prese per il culo avrà dovuto subire, lui che predica la pace universale in mezzo a capitani di industria senza scrupoli. Beh, nel 1907, l'anno dopo, Moneta riceverà il Nobel per la pace e a oggi è l'unico italiano ad averlo vinto. Rocktown. Allora, qui ognuno di noi credo che, insomma, ha memoria di un concerto rock che ha visto a Milano. Siamo a Milano, per cui ci interessa Milano. Roma no, per esempio. Milano invece, cioè, concerti rock, ognuno, io ne ho tante di ricordi, dai concerti rock pazzeschi allo stadio, piuttosto a quelli imposti come questo, ecco, che forse rimangono anche quelli più belli. Ma io voglio tornare indietro al momento in cui tutto è cominciato, e cioè al 18 maggio del 1957, il giorno in cui al Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi si tiene il primo festival di rock and roll e danze jazz, così si chiama, eh? Lo organizza un 31enne, si chiama Bruno D'Ossena, che è un abile ballerino di boogie, vincitore in coppia con la moglie Marisa Oriani di due campionati mondiali di bebop e rock acrobatico. Il rock and roll è la musica nuova, che arriva dall'America, la musica dei giovani, che si contrappongono per la prima volta come classe sociale ai loro genitori. Oggi quei suoni ci sembrano innocui, anche un po' ridicoli, ma a quei tempi fanno lo stesso effetto di un muro di rumore inascoltabile. Forse a D'Ossena della ribellione giovanile non gliene frega niente, peraltro. Nel 1956 ha partecipato alla Lascia da Doppia, che è l'emblema del mainstream, presentandosi in geografia, tra l'altro, e vincendo un'automobile. Il suo viso rassicurante, il suo fisico dinoccolato non lo fanno proprio assomigliare a un Teddy Boy, ecco. Molto probabilmente la volontà di organizzare il festival insieme alla moglie Marisa e all'amico ballerino Umberto Gallone deriva solo dal desiderio di crearsi una serata tutta per sé nella sua città, potersi esibire, accreditarsi come organizzatore e magari fare anche qualche soldo. Così, semplice. D'Ossena però ci sa fare. Usa come veicolo per l'organizzazione la Federazione Sportiva Danze Jazz. Trova lo sponsor, Loran Soda. Non so neanche se esiste ancora Loran Soda. E campeggia a caratteri cubitali, questo nome, Oran Soda, sul poster che annuncia la serata. E include nella serata alcune band che, fra un'esibizione di danza e l'altra, suonino per il pubblico quella musica così nuova, così particolare. Così almeno pensa D'Ossena, verrà un po' più di gente almeno, ecco, perché se no ce la cantiamo e ce la suoniamo tutto noi, cioè verranno i nostri amici, allora tira su un po' di gente, dai. D'altronde al Palazzo del Ghiaccio ci stanno 2000 persone. Non è poco. E il cartellone che reclamizza la serata presenta una gara di rock and roll per dilettanti, la presenza dei Colombettes, il re del cha-cha-cha, uela, la nazionale francese di bebop, il fantasista Torquato il molleggiato, i campioni italiani di blues e di charleston, ovviamente Bruno D'Ossena, e tre orchestre, due molto in voga, la Original Lambro Jazz Band e la Swing Parade, e una meno nota, Celentano and His Rock Boys. Adriano Celentano già canta da qualche anno a Santa Tecla. D'Ossena lo conosce, gli piace la sua grinta, per cui lo invita come unico cantante della serata, praticamente. E lui per l'occasione rimpolpa i suoi Rock Boys con un pianista, uno giovane, un giovane studente di medicina, occhialuto, un certo Enzo Iannacci. Insomma, cartellone somiglia più a quello di una odierna sagra paesana estiva, ecco, oggettivamente. Niente di trascendentale, ma D'Ossena ha trascurato il potere della parola rock and roll. O forse della parola Oran Soda, non so. Alle 9:30, davanti al Palazzo del Ghiaccio, sono in 7.000. Deve intervenire la polizia a sbarrare gli ingressi. I 5.000 rimasti fuori sfasciano macchine in tutta la via. Alcuni fedeli che stanno partecipando a una processione guidata dall'arcivescovo Montini in persona, il futuro Papa Paolo VI, attratti dal macello, cosa fanno? Mollano la processione e vanno a guardare cosa succede. Nei giorni successivi Montini scrive un articolo indignato sui giornali. Ma come? Questi qua fanno casino e... Tra l'altro rimangono fuori nel macello anche Torquato il Molleggiato e i membri della Swing Parade che erano usciti a farsi un caffè, e rischia tantissimo, non si sa bene come abbia fatto a rientrare, anche Enzo Iannacci, era uscito anche lui, ma lui riesce a entrare, gli altri no. L'orario d'inizio, che per via di questi casini slitta, Celentano sale sul palco alle 11:30 di sera. Canta in un delirio assoluto una manciata di pezzi rock, una sorta di cover di brani americani, di cui lui storpia l'inglese perché non sa l'inglese, facendolo diventare una lingua maccheronica priva di significato. D'altronde lui non ha ancora brani originali da proporre, questo è quello che fa nelle serate a Santa Tecla, ma non ha mai cantato davanti a 2000 persone, che ballano, gridano, si agitano, sudano. C'erano tutti ancora ben vestiti, tutti belli, ben pettinati, con i completini di mamma, bellini, bellini, con la cravatta addirittura. E tornano a casa felici. Per un'ora soltanto sono stati catapultati negli Stati Uniti. Si sono sentiti come chi vede suonare Elvis o Little Richard, al centro di tutto, anche se per poco. E basta questo, no? Per cambiare prospettiva. A Celentano la serata servirà per pensare in grande. A Iannacci per capire che non solo la medicina lo potrà rendere felice. Il successo fa sì che molti altri promoter vogliono organizzare altre serate, ma a causa degli incidenti le forze dell'ordine bandiscono Celentano e il rock and roll, per cui per alcuni mesi serate del genere sono vietate. Deve intervenire Dossena in persona, che d'accordo con la polizia organizza al Teatro Nuovo un processo al rock and roll, giuro, così lo chiama, dove pubblicamente invita gli spettatori a divertirsi, ma senza esagerare. Celentano è presente e prima della sua esibizione incita ironicamente gli spettatori ad applaudire, ma non troppo. Nella sua band, tra l'altro, c'è un membro nuovo, un certo Giorgio Gaber. La serata nasce e va avanti senza intoppi, da lì in poi il rock and roll potrà avere vita facile a Milano. Non purtroppo il povero Bruno Dossena, che nell'aprile del 1958 morirà tragicamente in un incidente stradale. Qui c'è l'Expo, cosa potremmo dire dell'Expo del 2015, ma però qui dopo, dall'altra parte, ci sono un sacco di concerti da raccontare, di ricordi, di cose. Boh, però siete voi che dovete decidere, non io. Io una scelta ce l'ho già nella mia mente, ovvio. Però, e allora vediamo un po', chi vuole sapere qualcosina su come è andato avanti l'Expo? Dai. Non era mai successo che nessuno applaudisse per qualcosa, era proprio triste. Cioè. A questo punto però noi siamo ligi, le cose si fanno bene o non si fanno. Chi vuole andare avanti a sapere che cosa è della Milano Rocktown? Vox Populi, Vox Day, per cui... Chi è che aveva l'Expo? A lei, mi dispiace. Magari poi glielo dico dopo. Ma sì, dai. All'orecchio. Allora, andiamo avanti con... Allora, e voi due qua davanti? Successo 48 e le vie dell'acqua. Vie dell'acqua. Allora. Da dove inizio? Vie dell'acqua. Ecco, ma c'è sempre qualcuno che dice, pom, è deciso proprio, Va bene, mi piace questa cosa. Chissà di che cosa parlerà le vie dell'acqua. Ma, incredibile. Incredibile. Allora, che la zona di Milano o proprio intorno a Milano sia piena d'acqua, lo sappiamo. Il Seveso, l'Olona, il Lambro, i torrenti Nirone e Pudiga, varie rogge e canaletti sparsi qua e là. Il Seveso è il fiume più vicino al centro città in epoca romana, e i romani, che di ingegneria idraulica se ne intendevano, fanno una roba che è una meraviglia. Invece di costruire acquedotti, fanno praticamente deviano il corso del fiume costruendo un canale circolare intorno alla città. Una volta però che hai una cinta di canali, perché non fanno un'altra ancora più fuori? Così entrare in città è ancora più complicato, no? Perché la cinta è un muro, praticamente. Allora i romani costruiscono un fossato ancora più esterno, lo chiamano Refossum, controllato da 4 piccoli castelli. Uno di questi è dedicato a Giove, perché è vicino a Porta Giovia, e Porta Giovia sarà il castello, quello da cui poi gli Sforza costruiranno il castello Sforzesco. Ma adesso facciamo un salto di parecchie centinaia di anni. Siamo nel 1152, Federico Barbarossa rompe parecchio le scatole ai milanesi, chiedendo soprattutto soldi. I milanesi non ci stanno, ma sono insidiati da Pavia, che è alleata dell'imperatore. A Guglielmo da Quintellino, architetto genovese al servizio dei milanesi, viene in mente di scavare un canale da Abbiategrasso all'Andriano per difendersi da eventuali attacchi dei pavesi. Il canale è chiamato Ticinello perché prende l'acqua dal Ticino e si dimostra molto efficace non tanto contro i pavesi ma per l'irrigazione dei campi. E noi che siamo gente pratica, nel 1179 da Abbiategrasso ne scavano un altro pezzo in direzione Milano. E va bene, ma sto canale che arriva da Abbiategrasso fino a Milano, scava che ti scava, dopo più di 30 anni, nel 1211, arriva finalmente a Milano, ma arriva nel nulla, a Sant'Eustorgio. E tra l'altro è solo un miserello canaletto per l'irrigazione, quindi imponente per l'epoca come opera, con una lunghezza di 50 km, 116 bocche di irrigazione, ma non utilizzabile per portare merce. Cosa che però dopo qualche anno viene in mente a un certo Beno Gozzadini. Beno Gozzadini è un fiscalista di Bologna che è chiamato nel 1254 dal gran signore della città, da sindaco praticamente, Martino Toriani, a fare più o meno l'assessore al bilancio. E nel 1257 viene nominato podestà. Per 6 mesi Gozzadini pensa che far giungere merci a Milano dal Ticino, e quindi dal Lago Maggiore, e potenzialmente quindi dalla Svizzera, sia una gran cosa, e propone l'opera al Consiglio dei 900, che è il Parlamento di Milano ai tempi, all'epoca, che però non è del tutto contento, gli dà l'ok a patto che non si azzardi a mettere nuove tasse per finanziare l'impresa, cioè va bene ma a costo zero. Beno si guarda bene dal farlo, ma siccome di amministrazione se ne intende, si rende conto che i soldi non sarebbero mai bastati, allora cosa fa? Innanzitutto prolunga alcune tasse che avrebbero dovuto finire quest'anno. Gli altri di non mettere nuove tasse, non di non prolungare quelle che ci sono già. Per cui. E dall'altro cosa fa? Tassa il clero, tassa i preti. Fino a quel momento non erano stati tassati da nessuno. I soldi ci sono e si comincia a scavare. Ma le decisioni di Beno suscitano un vespaio, polemiche a non finire. Alla fine del semestre da podestà, Gozzadini si presenta al Consiglio dei 900 per ricevere il consueto giudizio sul suo operato. E pensa, vabbè, insomma, saranno contenti, no? Ho iniziato una grande opera pubblica. In fin dei conti, non ho gravato troppo sulle tasche dei nobili. Per cui, con sua grande sorpresa, viene investito di ogni ingiuria possibile dai consiglieri che agiscono sobillati dai preti. Gli contestano il reato di concussione, gli chiedono di ridare indietro 4.000 denari imperiali, più o meno i soldi che ha ottenuto con le tasse ai preti. Il povero Gozzadini non si aspettava una cosa simile. Balbetta che lui, insomma, una cifra del genere, lui non ce l'ha, ma poi è innocente, non ha fatto niente, ma che concussione, ma dai. Ha agito solo nell'interesse della città, secondo le indicazioni del Consiglio. Per tutta risposta, Gozzadini viene preso per il mantello, linciato dai consiglieri e il suo corpo viene gettato nel Naviglio. Ti piaceva così tanto sto canale? Ecco, adesso ci finisci dentro per l'eternità. E quindi l'allargamento del Naviglio subisce uno stop? Ma neanche per idea. Il povero Gozzadini paga solo la colpa di aver toccato interessi inattaccabili. Quello che effettivamente ha fatto il lavoro continua i lavori. I soldi da qualche parte arrivano perché i toriani intuiscono che l'opera è importante e finalmente nel 1272 il primo barcone può arrivare dal Ticino fino a Sant'Eustorgio. Ci vorranno 100 anni per unire il Naviglio Grande alla cerchia dei Navigli e per scopi più che nobili, visto che l'allungamento servirà alla costruzione del Duomo, ma l'idea del Naviglio nasce qui. Allora, quando da bambino, poco dopo la metà di marzo, mi capitava di salire su un tram o su un autobus su cui svettavano due minuscole bandierine, chiedevo sempre a mia mamma come mai. E lei, alzando gli occhi al cielo, mi diceva, ma è per le 5 giornate. Ah già, mi dicevo, per le 5 giornate. c'è pure la piazza, quella dove c'è il Coin, dai. Ma come non sai cosa sono le cinque giornate? Ma che figure mi fai fare che c'è gente in giro qua? Siamo sul tram, mica a casa nostra. Però poi quando le chiedevo che cosa fosse successo durante quelle famose cinque giornate, le risposte non erano così precise. E in genere dicevano, ma abbiamo dato gli austriaci, c'era Radetzky che era cattivo, poi Martinit, vabbè, adesso poi te lo fai raccontare da papà a casa, eh? Più o meno andava così. Ora, non so quanti milanesi avrebbero potuto rispondermi con maggiore precisione, eh? Mio papà, per esempio, quando a casa lo chiedevo, svicolava. Ma anche lui andava oltre a un generico Radetzky, Martinit. Una specie di dioscuri che avrebbero dovuto spiegare l'inspiegabile. No? Ma Radetzky, Martinit, basta, chiaro, no? Cioè, devo anche spiegartelo. Chissà innanzitutto quanti sanno di preciso quali sono i giorni delle cinque giornate? Quali sono? Forse tu cercavi di 21, così almeno si finiva prima. Si finiva prima, esatto. Dai. 18-22 marzo 1848, giorni caldissimi, in cui tutta Milano, dai nobili al popolo, si rivolta agli austriaci che la dominano da più di un secolo, ma che negli ultimi 30 anni, dopo la sconfitta di Napoleone, hanno perso il carattere illuminato dei tempi di Maria Teresa. In gennaio si è rivoltata a Palermo, poi Napoli, poi Vienna, Berlino, addirittura Budapest, perfino il Papa promette la Costituzione, il Papa. A capo della guarnigione austriaca di 15.000 soldati c'è il maresciallo Radetzky, un arzillo 82enne che forse non si accorge neppure che il vento della storia sta cambiando. Pensa che i milanesi siano dei sudditi, buoni solo al limite ad organizzare uno sciopero del fumo per impedire agli austriaci di incamerare le altissime tasse sui sigari. È successo davvero. E invece no. In realtà la situazione è diversa, è tesa. Basta la notizia secondo cui Metternich a Vienna sarebbe stato costretto alle dimissioni per far riunire il 18 marzo centinaia di persone in piazza Mercanti, sotto il palazzo del governatore austriaco, per chiedere a lui e al podestà milanese Gabrio Casati libertà di stampa e maggiore autonomia. Casati però non c'è. Non c'è neanche il governatore, a dire il vero. C'è il vice. Preso dal panico, firma una serie di concessioni molto ampie. Ma mette in allerta Radetzky. Occhio, ho firmato, ma te occhio. Che per tutta risposta comincia a far sparare sulla gente. I cittadini allora incominciano a creare un numero impressionante di barricate nelle strade, usando ogni materiale possibile. In piazza Codusio addirittura usano i libri dell'archivio del Bollo, lì vicino. Riempiono il selciato di vetri rotti, di pezzi di ferro per fermare i cavalieri austriaci. Il 20, Casati e alcuni nobili creano un consiglio di guerra. Sulle barricate, fianco a fianco, ci sono per la prima volta nobili e popolani. Le informazioni corrono veloci, portate dai bambini dell'orfanotrofio di San Martino, chiamati Martinit. Radetzky non se l'aspettava. È sorpreso, un po' mi ricorda qualcosa, di recente. Qualcuno che invade, che non si aspetta la resistenza. È sorpreso Radetzky dall'orgoglio dei milanesi, vorrebbe cannoneggiare la città addirittura, ma viene dissuaso. Per fortuna non lo fa. E allora chiede un armistizio, ma viene negato l'armistizio. E il 21 si crea un governo provvisorio, con a capo Carlo Cattaneo, che naturalmente, appena creato, si spacca. Beh, no, chiaro, forse deve essere di sinistra probabilmente. Ci sono i moderati che vorrebbero l'aiuto del re di Sardegna, Carlo Alberto, e i democratici che dicono di attendere di avere una posizione più forte. I 22 e i rivoltosi hanno in mano Milano, Radetzky per prudenza sceglie di andarsene nella città. Per farlo però deve aprirsi un barco a Porta Tosa, dove premono i contadini per entrare a combattere insieme ai rivoltosi. Dopo i combattimenti nella notte, gli austriaci riescono a ritirarsi e un garzone di 17 anni, di cui non si sa il nome, può issare il tricolore su Porta Tosa, che da quel momento in poi verrà chiamata Porta Vittoria. Le cose non andranno poi tanto bene. Carlo Alberto arriva e perde tutte le battaglie che può perdere. Pochi mesi dopo Radetzky rientra trionfalmente in città, ma qualcosa è cambiato per sempre e un popolo intero smette di vivere da suddito e comincia a sentirsi cittadino. E allora, ok Radetzky, ok Martinit, ok anche alcuni nomi forse già sentiti come Casati e Cattaneo, ma per la prima volta nella storia un ruolo fondamentale per la vittoria nelle cinque giornate ce l'hanno le donne. tantissime donne di ogni ceto sociale, da Costanza Trotti Arconati, ricchissima, nobildonna, che finanzia il governo provvisorio, a Luisa Battistotti Sassi, che prima ruba da sola una pistola a 5 austriaci e li fa prigionieri. Poi guida la rivolta a Sant'Eustogio e riceverà, grazie a queste gesta eroiche, una pensione a vita, che a causa del ritorno degli austriaci non potrà mai riscuotere, morendo in esilio negli Stati Uniti. Ahimè. Laura Solera Mantegazza, filantropa ed educatrice, che guida i quasi 600 milanesi feriti durante i moti e aprirà poi i primi asili nido e la prima scuola professionale femminile d'Italia. E Maria Falcò Dadda, che insieme al marito Carlo Dadda è in prima linea durante gli scontri e poi scriverà un pamphlet perché le donne si battano non solo per un'Italia libera, ma anche per avere pari diritti rispetto agli uomini. Non so se ce l'hanno fatta proprio, eh. E qui abbiamo la storia dei Navigli, perché qua ne abbiamo parlato di uno, ce ne sono altri di Navigli, di storie sui Navigli ce ne sono, e se no poi qualche altra cosa che riguarda le cinque giornate, ma chi lo sa, io che voglio andare avanti a sentire che cosa hanno fatto, Radetzky, chi era Radetzky, non lo so, vedete voi. Allora io comincerei con un applauso al 48. Questa è dura. Un applauso allora a chi vuole sapere tutto sugli restanti Navigli. Si rifà. Mi piace quando c'è violenza, quando c'è battaglia. Va bene, si rifà, non c'è problema. Un applauso allora a Succede un 48. E allora adesso un applauso per i Navigli. Ragazzi, qua è pareggio, eh. Qua è pareggio. Sulle mani allora a quel punto. Sulle mani per il 48. Usti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anche voi votate? Per quell'altro vota quell'altro però. Ah, eccolo, allora va bene. E 8. Sulle mani per i Navigli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cazzo! È un problema. Si va al sorteggio. Si va ai rigori. Si va ai rigori che è il sorteggio. Chi è che ce l'ha? Voi? Sì, la nostra. Ok, allora, dateglielo a lei. E lei, cioè, che siete vicini, solo per quello. Ludovica, tira su uno a caso. Mescola, bravo. Questo è il vincitore. 48. 48, mi dispiace. Avevo delle storie bellissime sui Navigli, ma storie incredibili. Questo è uno scontro di titani, eh? O di titani, non so. Come si dice, titani o titani? Titani, scusate. Scontro di titani. E sei lungo come la fabbrica del Duomo. Quante volte l'avete sentita? Un sacco di volte. Ma cosa significa? Perché la fabbrica del Duomo è così lunga? È perché da 650 anni lavora per costruire il Duomo. E continua a farlo, tra l'altro. Tanto che la parte destra della chiesa è occupata tuttora dai magazzini della fabbrica. Non è il massimo, in effetti. A fianco di una chiesa bellissima ci sono ponteggi, strutture, operai sempre al lavoro, ma non potrebbe essere altrimenti. La chiesa è fragile ed è continuo oggetto di manutenzione. Ma perché? Cioè, non è che a San Pietro c'è la fabbrica di San Pietro che la mette sempre a posto, Santa Maria Novella, no. Perché la costruzione del Duomo è stata fin dall'inizio un gran macello. Innanzitutto, sul luogo dove oggi c'è il Duomo c'è già un'altra chiesa. Quando Gian Galeazzo Visconti nel 1386 ordina di costruire proprio lì una cattedrale mastodontica. Si dice che l'idea gli sia venuta dopo una notte in cui sembra abbia sognato il diavolo in persona che gli suggerisce quella location. Ci credo, così distrugge una chiesa. Beh, certo. E quella chiesa non è lì da poco, ma è lì da 1000 anni, cioè dopo l'editto di Costantino. Si chiama Basilica di Santa Maria Maggiore ed è chiamata Cattedrale Invernale. Se c'è una cattedrale invernale, ci sarà anche la cattedrale estiva. Primaverile, autunnale, non lo so, ma magari l'estiva. Cioè, è Santa Tecla, che è più grande, è posizionata un po' storta, cioè più o meno dove oggi c'è il monumento a Vittorio Emanuele, cioè la cattedrale invernale e la cattedrale estiva sono a 200 metri l'una dall'altra. Il senso non si sa. Però quando ci si sposta dall'una all'altra c'è una cerimonia pazzesca, che dura 10 minuti probabilmente, che magari ci vuole molto. Santa Maria Maggiore ha un presente un po' tormentato in quegli anni. Azzone Visconti, con la A, cugino del padre di Gian Galeazzo, ha fatto costruire un gran campanile, che però nel 1353 crolla miseramente, semidistruggendo la facciata, che insomma, che viene rifatta, ma male. Cioè, non è sto granché, ecco, diciamo. Forse anche per quello che Gian Galeazzo vuole distruggere per costruire. O forse soprattutto direi, è perché ha bisogno di una grande cattedrale, Gian Galeazzo Visconti, che simboleggi la grandezza del suo Stato, che si sta espandendo fino ad arrivare fino a Siena, fino a Bologna, fino a Vicenza e al Ducato di Milano, alla fine del 300. Insomma, un'Italia in miniatura. E allora la vuole enorme. Fatto di marmo pregiato, quello di Candoglia, che arriva dalle cave dei Visconti del Lago Maggiore, talmente prezioso e importante che giunge a Milano senza pagare alcun dazio, perché è materiale che serve per la fabbrica dell'uomo di Milano, ad usum fabrice, AUF, da cui l'espressione AUFO, che si usa ancora oggi, altro che il diavolo. Forse il diavolo è proprio lui, Gian Galeazzo. Santa Maria Maggiore la demoliscono piano piano, cominciando dalla parte di destra, costruendo al suo posto magazzini, depositi, una casupola per gli scalpellini. Scalpellini che non sono evidentemente granché efficienti, perché dopo 6 anni la chiesa nuova ancora non si vede. Tanto che allora scelgono di smettere di demolire quella vecchia, che resta consacrata. Anzi, decidono di restaurare anche un paio di cappelle, cioè non riusciamo a tirare giù quella vecchia, a fare la nuova lasciamo un pezzo di quella vecchia, insomma. Ma perché ci mettono così tanto per costruire la chiesa nuova? Perché dopo qualche anno in cui il direttore dei lavori è Simone da Orsenigo, che fa un buon lavoro, soprattutto progettuale, vengono chiamati alla direzione architetti francesi. Forse perché il gotico fiammeggiante l'hanno inventato loro. Ma le maestranze lombarde sono abituate a un diverso ritmo di lavoro, per cui li boicottino. Cioè, non si può dire che scioperano, ma quasi, ecco. L'altare maggiore viene consacrato addirittura nel 1418 alla presenza del Papa Martino V e solo in quel momento la vecchia cattedrale viene definitivamente demolita. Ma la chiesa non è mica finita, mancano la facciata, mancano delle parti interne, mancano le statue, mancano anche i soldi. Perché Gian Galeazzo, che è morto all'improvviso nel 1402 senza vedere completato il suo sogno, praticamente vede il suo ducato distruggersi velocemente. Non c'è più il ducato, non ci sono le terre, non ci sono i castelli, non ci sono i soldi. Per questo motivo la continuazione sarà complicatissima. La facciata addirittura verrà completata soltanto sotto Napoleone, che come Gian Galeazzo pretende una chiesa degna di sé. Insomma. Nemmeno Napoleone potrà vederla finita, perché la parola fine ai lavori della facciata verrà nel 1813, quando Napoleone ha altri problemi a cui pensare. Ma in quegli anni cominciano i problemi strutturali, che costringono la veneranda fabbrica a intervenire di continuo per puntellare, restaurare e fare manutenzione. Tanto che forse, pensandoci bene, forse è stato davvero il diavolo a suggerire a Gian Galeazzo di costruire una chiesa nuova, visto quanto ci hanno messo a costruirla e quanto ancora oggi bisogna lavorarci. Il diavolo che appare più volte in mezzo alle 3.605 statue che ornano la cattedrale e che sono state inserite via via, soprattutto nel XIX secolo. Ma questa, quella delle statue e non solo, è un'altra storia. Magari la vedremo. Qui ragazzi, qui mi spiace, questo è Barcellona Paris Saint Germain comunque, veramente, cioè Bayern Monaco Real Madrid, peccato, e vabbè, è d'altronde, l'urna, è così. Oh, nel 1776 il Regio Ducal Teatro di Milano è il principale teatro d'opera della città, costruito nel 1708 nel secondo cortile di Palazzo Reale, dove prima c'era un altro teatro, il Salone Margherita, distrutto da un incendio. Subito dopo il gran ballo del Sabato Grasso, il Regio Ducal Teatro viene anch'esso divorato dalle fiamme. Qualcuno darà la colpa ai custodi, qualche altro a un incauto ballerino, ma in molti in città pensano che l'ordine sia arrivato dal governatore in persona, Ferdinando d'Asburgo. È lui che l'ha fatto bruciare. Ferdinando d'Asburgo è il quindicesimo figlio di Maria Teresa. Si è insediato da qualche anno, ritiene che il palazzo ducale non sia una residenza degna del suo rango. Palazzo Reale, quello che è il Palazzo Reale. Con tutto quel via vai di gente che va a teatro poi, ma insomma, io sono il governatore, mi passano davanti tutto il giorno. Nel 1773 lui chiama un architetto di grido, l'umbro Giuseppe Piermarini, per far diventare palazzo ducale splendente come una corte europea. Ma la madre, che c'hai da me, non ci sente. E allora il Ferdinando cosa fa? Incendia il teatro. Tac, vediamo. Non mi fanno casa mia come voglio, almeno a casa mia faccio quello che voglio io. Ma tutta sta gente che va avanti e indietro, come dice lui, in realtà sono i nobili milanesi, appassionati oramai al teatro d'opera, non puoi toglierlo. Dichiarano subito che i soldi per la ricostruzione ce li metteranno loro. In cambio vogliono solo una cosa, potersi intestare i palchi. Così quando andranno all'opera si sentiranno a casa loro. Anche qui un crowdfunding prima ancora della Statua della Libertà. Il Ferdi, disperato perché teme che gli vogliono ricostruire il teatro sotto casa, chiama mamma e Maria Teresa lo accontenta. Impone ai milanesi di costruire il teatro in un posto diverso da Palazzo Ducale. E anzi, astuta come una volpe, dice ai nobili di costruirne due di teatri, uno nobile e uno popolare. Se vi piace così tanto il teatro, date la possibilità di usufruirne anche alla gente, così magari vi vorranno un po' di bene. Il teatro popolare viene chiamato Teatro Cannobiano, avrà varie cose, ed è il teatro lirico. Oggi è il teatro lirico. Il teatro nobile viene chiamato, con somma fantasia, Nuovo Regio Ducal Teatro. Ma il luogo prescelto è a qualche centinaio di metri a nord del Duomo, in una zona dove c'è una chiesa dal 300, Santa Maria alla Scala, dal cognome della donna che l'ha fatta costruire, Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti. Viene tranquillamente demolita la chiesa, non ha problemi di buttare giù le chiese, buttare giù roba per ricostruire altro. Ma il nome per esteso del teatro, per una migliore geolocalizzazione, è Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, così tutti sanno dov'è. Col tempo la novità è passata, i re duchi non ci sono più, resta soltanto la parte terminale, Teatro alla Scala. A progettare i nobili milanesi chiamano sempre Piermarini, che ha una sola grande idea, che poi declina in vario modo nelle sue varie creazioni. La classicità. Niente baroccaggini, niente puttini colonne, colonne puttini, no, niente arzigogoli. Bisogna fare tutto in modo che tutto somigli a un tempio greco e latino. Austero, severo, proporzionato. Forse con la Scala Piermarini dà il meglio di sé. Sia all'esterno con il portico per le carrozze, una facciata lineare, neoclassica, sia all'interno con intrichi di passaggi, scale, accessi, soluzioni acustiche d'avanguardia e 3.000 posti tra platea e 6 ordini di palchi. I primi 3 per la nobiltà, il 4 e il 5 per la nascente borghesia e il 6, il cosiddetto loggione, per militari, artigiani e giovani aristocratici. Il luogo dove sorge il teatro in realtà è una specie di piccolo slargo dove prima c'era la chiesa, su un lato della futura via Manzoni. La piazza, Piazza della Scala, non esiste. Per 70 anni, infatti, davanti a Palazzo Marino esistono vecchi condomini popolari riuniti nella contrada La Scala. Che fantasia. Solo nel 1858 li buttano giù e creano Piazza della Scala e mettono lì la statua di Leonardo. La Scala viene inaugurata il 3 agosto 1778 con la prima dell'Europa riconosciuta, opera lirica in 2 atti di Antonio Salieri. E a onorare il teatro appena inaugurato nel Palco Reale c'è naturalmente il governatore Ferdinando, felice di non avere più nobili, fastidiosi e teatranti casinisti nel quartiere di casa. E quasi va giù duri, Allora, Duomo o Scala? Ah, di robe da raccontare ce n'è un sacco. Quindi, forza. Chi vuole il Duomo, applauso. Ah, hai capito. Chi vuole la Scala? Non l'avrei mai detto. Non è mai successo. Evviva! Allora, qui siamo alle semifinali. Siamo alle semifinali. La scala è qua. Le semifinali, e io incomincerei dai primi due, così torniamo indietro, giusto? Io è d'accordo, per cui prenderei come benchmark. Allora, qui abbiamo un arrivi e partenze contro Lockdown. Porca miseria. Casino qua, Da dove incomincio? Rocktown. Avevo messo arrivi e partenze. Allora, abbiamo raccontato quello che è accaduto il 18 maggio del 1957 al Palazzo del Ghiaccio. L'inizio di tutto. Il primo festival di rock and roll. Adriano Celentano. Raccontiamo quello che, continuiamo adesso raccontando quello che è successo 7 anni dopo quell'incredibile serata. Andiamo in ordine cronologico, insomma. 58 più 7, anzi 8 anni dopo, perché ho scritto 7? 57 più 8 fa 65. Bravi. E qualcuno ha già capito di cosa voglio parlare. Ma adesso che dico dove, lo capite tutti. Il Vigorelli. Vigorelli è un velodromo costruito nel 1935 per ospitare gare di ciclismo su pista. Ha una vita illustre il Vigorelli, perché nel 39 è sede del campionato mondiale di ciclismo, così anche nel 51, 55 e nel 62. Nel 1942 Fausto Coppi lo usa per stabilire il primato dell'ora, che deterrà per 14 anni. Ma non di solo ciclismo vive il Vigorelli, Nel 63 Mazzinghi, per esempio, diventa lì campione del mondo di box dei pesi medi. Ma fino al 65 nessuno si è mai sognato di usare il Vigorelli per qualcosa che non riguardi lo sport. E su questo bevo. Suspense. Finché un impresario polacco di origine ebrea, sopravvissuto ai campi di concentramento di Dachau, Leo Wachter, o Wächter, non ho mai capito come si pronunci, non decide di osare e fare un salto nel vuoto. E dopo averne portato in Italia Henri Belafonte, Josephine Baker e Polanka, scrittura i Beatles e organizza 2 loro concerti proprio al Vigorelli. Un vero azzardo, perché nel 1965 dei Beatles in Italia se ne parla molto poco, sia nei giornali che anche in televisione, tanto che quando Wächter telefona in Rai per accordarsi per le riprese televisive, interviste esclusive, roba del genere, per i Beatles, gli rispondono: i Beatles chi? Per poi concludere: gentile signor Wächter, siamo impegnati in altre cose più importanti, e poi di questi Beatles fra qualche anno non ne parlerà più nessuno. La Rai, Se ne parla poco, sì, dei Beatles, ma hanno un esercito di fans. Forse sono i fratelli minori di quelli che nel 57 hanno assalito il Palazzo del Ghiaccio, che scalpitano nei loro completini e vogliono dire la loro. Hanno la radio, la TV, il frigorifero, il papà l'automobile e la mamma la lavatrice, e loro vogliono la libertà. Wächter, abituato a organizzare concerti e rassegne, queste cose misteriosamente le intuisce. E allora prende contatti con Brian Epstein, e forse anche grazie al fatto di essere entrambi di origine ebrea, trovano facilmente un accordo. Il tour europeo è breve, i Beatles vogliono venire in Italia, tutto ok. Il 23 giugno i Beatles arrivano a Milano in treno, da Lione, dove hanno suonato la sera prima. Ad attenderli alla stazione ci sono 3.000 persone. Molte sono già al binario 16, che è il luogo previsto di arrivo del treno, che infatti viene dirottato al binario 4, dove non c'è quasi nessuno. Tanto che quando Paul McCartney scende dice: ma come, non c'è nessuno? Ma non ho capito, normalmente è un casino invece. Il resto delle persone però è giù nell'atrio con cartelli e fischietti, così tanta gente non se l'aspetta nessuno, infatti in pratica non c'è servizio d'ordine. Adesso vengono i sudori freddi, perché grazie a un accordo commerciale con l'Alfa Romeo ha noleggiato 4 Spider scoperte per far fare ai Beatles un giro trionfale dalla stazione all'Hotel Duomo, dove i 4 alloggeranno. Ma non si aspettava così tanta gente all'arrivo. Ma i ragazzi sono scalmanati, sì, ma un po' più educati di quelli di oggi probabilmente. Per cui miracolosamente lo spostamento in auto avviene senza incidenti. E con il fuori programma per ingannare i fans in Piazza del Duomo del passaggio dell'auto in galleria, dove le automobili non possono assolutamente passare. Il giorno dopo ci sono i 2 concerti. uno alle 4 del pomeriggio, fantastico, sotto il sole terribile del 24 giugno, l'altro un po' più consono alle 9 di sera. Una scelta geniale, tra l'altro, che fa intuire quanto Bechdel ci avesse visto giusto. I fans sono molto giovani, probabilmente non avrebbero avuto mai il permesso dai loro genitori di andare a vedere un concerto serale. E infatti al Vigorelli di pomeriggio ci sono 7.000 ragazzi. Ognuno di essi ha pagato un biglietto che costa, a seconda della posizione, tra le 750 e le 3.000 lire. Nemmeno poi tanto, eh? Pensate che ai tempi un caffè costa 50 lire, un giornale 60 e un LP 1.008. Si sorbiscono, i ragazzi, prima dell'arrivo dei Beatles, l'esibizione dei gruppi e cantanti Spalla, presentati da Lucio Flauto e Rossella Como, Peppino Di Capri, Fausto Leali, i giovani giovani, si chiamavano così, Guidone davvero, era uno, si chiama Guido, che era grosso, quindi con somma intelligenza si è fatto chiamare Guidone, e poi almeno qualcuno di bravo, cioè Maurizio Aceri e New Dada, che però ai tempi facevano beat. Finalmente arrivano loro, i Fab Four, che suonano soltanto 12 canzoni, per un totale di 40 minuti, niente bis. Ma chi se ne frega? È un sogno che si avvera vedere da vicino John, Paul, George e Ringo, tanto che sono convinto che tutti questi ragazzini ne conserveranno memoria per gli anni a venire. Io personalmente ricordo di aver avuto un collega anni fa che è stato uno di quei 7.000. È entrato scavalcando i cancelli senza pagare perché i suoi genitori i soldi non glieli volevano dare. E allora lui ci è andato lo stesso. E quando ne parlava gli si inumidivano gli occhi per l'emozione. La sera ovviamente il pubblico aumenta, 20.000 persone, un'enormità per i tempi. Rimarrà un record per parecchi anni a Milano. I Beatles, spente le luci del Vigorelli, torneranno in albergo e poi a fare quattro passi in Piazza del Duomo, per poi finire al Charlie Max, famoso night di Piazza Diaz, dove si esibisce Augusto Righetti con le sue ombre. È vero. In pratica è in realtà la prima formazione dei Camaleonti. I Camaleonti, non so se qualcuno se li ricorda, erano un gruppo beat degli inizi degli anni 70. I Beatles rimangono impressionati dal virtuosismo chitarristico di Righetti, che ha conosciuto tra l'altro personalmente Cliff Richard e gli Shadows. Bisogna dire che John e George non è che fossero dei chitarristi pazzeschi a livello di virtuosismo, però insomma Righetti, però ma che bravo sto qua. E insomma restano a parlottare con Righetti fino alle 5 del mattino. Poi un viaggio in macchina verso Genova, un altro palco da calcare e via, verso altri successi. Leo Bechdel continuerà a macinare concerti, portando in Italia negli anni successivi i Who, i Rolling Stones, e 12 anni dopo rileverà un vecchio cinema in via San Gallo, talmente macilento che gli abitanti della zona lo chiamano El Pisa. Non so se perché avete capito, no? El Pisa, cioè, avete capito? È Pisa, vado a Pisa, ecco quella roba lì. Lo rinominerà Chuck e lo farà diventare Tempio del Cabaret milanese. Nessuno sa che fine abbia fatto il funzionario Rai che ha permesso l'assenza di riprese per il più storico concerto mai avvenuto a Milano. Vabbè. Mi si vede? Una silhouette. Meglio. Vabbè, dov'è che c'è? Ah, facciamo questo qua mi piace, sì, vai. La sala del re, l'abbiamo raccontata, no? Della sala del re. Ah no, aspetta per un attimo, prendo questo qua, tac, aspetta, No, questo qua, raccontiamo sta roba qua, che è interessante. La sala del re, vabbè. Ma poi, insomma, la stazione centrale è rimasta pressoché uguale a se stessa fino al 2005, quando hanno completamente rifatto gli interni. Allora, io ho qualche ricordo personale, per chi magari è troppo giovane, della centrale sa solo quello che si vede oggi, con la Feltrinelli alta tre piani, il rosso pomodoro e quella roba lì, insomma. Per esempio mi ricordo la sala d'attesa, di seconda classe, dove oggi c'è la sala della Feltrinelli al piano binari, era un luogo incredibile, dove c'era la più varia umanità, mica solo quelli che aspettavano i treni, ma anche clochard, piccoli malavitosi, ladruncoli, coppie di amanti in incognito. Era enorme, con soffitti altissimi, pieno di panche di legno, con ai muri i dipinti di 6 città italiane, e non ho mai capito perché. Assisi, Napoli, Padova, Pisa, Bologna e Trieste. Non so. Realizzati da Marcello Nizzoli, tra l'altro un pittore futurista abbastanza importante, ma soprattutto grande designer, perché negli anni 50 lui disegna la lettera 22 dell'Olivetti. A fianco all'attuale Feltrinelli, poi, c'era la sala d'attesa di prima classe. All'ingresso c'era un tizio che ti chiedeva se avevi il biglietto di prima classe. Se non c'avevi quello di prima non potevi entrare. Quella era molto simile all'altra, ma i divani e le poltrone erano in pelle e non in legno. Chissà se qualcuno si ricorda dove erano le biglietterie una volta. Nell'enorme salone d'ingresso, 30 sportelli uno dopo l'altro, distinti solo dalle lunghissime scale mobili centrali che arrivano direttamente ai binari, costruiti nel 55. Tra l'altro, se volevi prendere un biglietto per l'estero, dovevi andare tutto sulla destra, dove oggi mi pare ci sia un ufficio postale a piano terra. Ai tempi c'era una grande sala vuota con 4 o 5 sportelli, vuoti per quasi tutto l'anno, a parte l'inizio dell'estate quando valanghe di giovani si riversavano lì per comprare l'Interrail. Solo che o lo sapevi che prendere un biglietto per Londra o Mosca dovevi andare lì, oppure ti facevi mezz'ora di coda allo sportello e poi ti dicevano che dovevi andare là. E dove oggi ci sono le biglietterie e le scale mobili? Che cosa c'era? Niente. Non c'era? Niente. Almeno niente di visibili, perché gli ingressi laterali, da dove oggi si entra in stazione, erano chiusi al pubblico. E lì dentro forse c'erano enormi archivi di carta. Poi, adesso quando si va a prendere qualcuno in stazione, se sei in auto lo si aspetta giù, più o meno dove ci sono i taxi, a piccola rotonda. Se si va su, visto che insomma, sì, si può arrivare fino ai binari, ma si sta fuori dai binari, lo si aspetta all'uscita di uno dei varchi, no? In genere è facile vedersi perché il varco è abbastanza aperto e va bene. Ma ai tempi ci si vedeva davanti al transatlantico. In mezzo alla galleria dei binari c'era sotto una teca un gigantesco modellino della Michelangelo, orgoglio della Marina Commerciale Italiana. Era impossibile non vederla, per cui quello diventava un luogo d'incontro per tutti. Ma per mio padre no, lui doveva distinguersi. Sì. Mi diceva sempre: ci vediamo davanti al Museo delle Cere. Perché c'era un Museo delle Cere, sempre nella Galleria dei Binari, più o meno, se non ricordo male, dove oggi c'è Bistrò Milano. Naturalmente fungeva da luogo di incontri perché era semplice da vedere. C'era un'insegna, Museo delle Cere, bello, bello grosso, e si poteva dire: ci vediamo al bar, ce ne sono 50 di bar in stazione. Ma per inciso io dentro al museo non ci sono mai stato. Mi sarebbe anche piaciuto, perché aveva quell'insegna nera un po' dark, un po' peccaminosa anche. Quelle scalette buie che scendevano, che non capivi se entravi in un museo, in un cinema o in un bordello, in un night. Chissà se ha avuto tanti visitatori quel museo. Forse non abbastanza, perché ha chiuso ben prima del rifacimento, più o meno a metà degli anni 90. All'interno c'erano 80 statue di cera, raffiguranti italiani illustri come Cavour, Mazzini, Garibaldi, ma anche Sofia Loren, Totò, Padre Pio e poi, più indietro nel tempo, Virgilio e Ottaviano Augusto. E uno può chiedersi: che fine hanno fatto queste statue? Chiuso? Le hanno fuse? Beh, se le è comprate un imprenditore mantovano, un certo Andrea Federici, pagandole tutte 80 €1.000. Per un po' se le tenute a casa sua. Poi nel 2004, forse la moglie gli ha fatto presente, scusa, cioè c'è un po' di problema, no? Cioè non posso stare con te con un carburo che mi guarda, e le ha donate al sindaco del suo comune, Gazzoldo degli Ippoliti, che non è il nome del sindaco, ma è il nome del comune, che li ha messe nel seicentesco Castello degli Ippoliti. Lo hanno chiamato, non so perché, Museo delle Cere della Postumia. C'è ancora, ed è un pezzo di storia della Milano di una volta. Allora, qua c'è Rocktown o la stazione centrale. Su Rocktown ci sono altre storie di concerti memorabili, sulla stazione centrale c'è qualcos'altro, sì, va bene. Era Rocktown l'altro, giusto? Ok, no, perché a volte... vabbè, vedete un po' voi, io un'idea ce l'ho, naturalmente, però vedete un po' voi. Votate e applaudite per la stazione centrale. Ma adesso voglio un bel applauso per Rocktown! A me mi sembra leggerissimamente di più Rocktown. Stavolta non faccio i voti perché sono bastardo, sono qua, decido io. Non è vero. Mi sembra un po' di più Rocktown. Ma sì, dai! Ma tanto! Fuori piove! E allora Rocktown va in finale! Attenzione! Volevo dire che non era mai successo. Qui abbiamo la scala col 48 adesso, giusto? No. La scala col Duomo l'abbiamo appena fatto e ha perso il Duomo. Ha vinto la scala. Quindi la semifinale è la scala contro il 48. Dico bene? Sono qua? Ah, ok. Cioè, sono un po' rincoglionito io, anche da raffreddore, però cioè, non fatemi sembrare più rincoglionito di quello che sono. E allora? Allora. Abbiamo raccontato delle grandi donne che hanno fatto il 48, ma tutto è nato con Radetzky. Sì, tutto è nato. Dov'è Radetzky? Chi? Eccolo qua, Radetzky. Cazzo è Radetzky? Sto Radetzky, continuano sempre a dire Radetzky di qua, Radetzky di là. Ma soprattutto a 80 anni, in un secolo che se superi i 60 sei già miracolato. Ma che ci fa sto vecchietto a capo di Milano? A rompere i coglioni a noi. Innanzitutto il suo nome completo è Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz. Uno con un nome così lungo deve pensare in grande, forse anche essere un po' rompiscatole. Figlio di nobili boemi, ma la vita non gli comincia bene. La madre muore partorendolo nel 1766. Il padre muore 10 anni dopo. Lo zio perde quasi tutti i soldi della famiglia. Il nonno con cui vive lo manda in collegio. Bella vita di merda. Non è neanche uno studente brillante il buon Radetzky. Gli piace solo la storia e ama Giustiniano. Bah, vabbè. Allora, siccome va male a scuola, mi fanno fare il soldato. Sembra perfetto. Anche lì non gli butta bene. Scala i gradi dell'esercito imperiale, proprio quando diventa una superstar un certo Napoleone Bonaparte, che per una 15ina d'anni ogni volta che vede gli austriaci li massacra di botte. Radetzky va tutto quasi sempre di lusso, nel senso che ogni volta che gli austriaci perdono, e perdono di brutto, è sempre presente ma riesce a non farsi troppo notare nel casino. Usando una metafora calcistica, è una specie di centrocampista che fa il compitino, il passaggio facile laterale, e poi si nasconde, sei in pagella e via. Poi quando Napoleone è messo male, allora affonda unghie e denti, tanto da entrare trionfante a Parigi il buon Radetzky nel 1814. Ma siccome alla fine è un po' un cagasotto, a Waterloo non si fa vedere. Meglio stare a casa, no? Forse ci aveva da freddone anche lui. Però riappare in pompa magna al congresso di Vienna, dove fa come Berlusconi tra Bush e Putin, mediando fra l'imperatore austriaco e lo zar Alessandro. Alessandro, amico mio, dai, forza, dateci la mano e facciamo un nuovo ordine. Dopo tanto backstage potrebbe arrivare il suo momento, ma gli butta male pure qui. Prova a proporre una riorganizzazione dell'esercito con grandi manovre continue e un po' qui gli danno retta, ma quando chiede che si alzi la paga agli ufficiali lo stoppano. Radetzky, che mi fa il sindacalista? Dai. Vorrebbero defenestrarlo, ma l'imperatore trova una via d'uscita più elegante per questo simpatico sfigato. Lo nomina governatore di Olomouc, una cittadina della odierna Repubblica Ceca, che, visto che non avete avuto nessun tipo di reazione al nome Olomouc, probabilmente neanche lui aveva detto, Ma proprio quando pensa di aver gettato via la propria esistenza, al buon Josef capita la buona occasione. Nel 1831 il nord Italia si ribella, c'è bisogno di qualcuno che aiuti il vecchio comandante dell'esercito austro-ungarico in Italia. Qualcuno si ricorda che come portatore di borracce Radetzky è formidabile e lo richiama in servizio. Tanto briga il povero Joseph che non solo la rivolta è domata, ma nel 1834, quando il governatore va in pensione, viene nominato governatore del Lombardo-Veneto. A 70 anni ce l'ha fatta. Ah, ha un ruolo. Non può più sperare di essere, che so, ministro della guerra, capo di Stato Maggiore, ma adesso sta a Milano. È una città viva, piena di fermenti. Abita in Via della Brisa, in un grande palazzo tutto per sé, ed è il capo. Quando un outsider che ha brigato tutta la vita per ottenere il ruolo che lui crede di meritare venendosi passare davanti tutti quanti, finalmente lo ottiene, non importa a quale età, ma se è vecchio è pure peggio, quello ruolo lo difende con le unghie e con i denti, diventando un galattico rompicoglioni, misantropo e sospettoso. E tale diventa per i 15 anni in cui fa il gran capo a Milano, prima che i milanesi lo costringono a fuggire dal portone di Porta Tosa. Sospetta dei nobili cittadini e allora toglie le tasse ai contadini per portarli dalla sua parte. Quando i milanesi omaggiano in maniera un po' esagerata, secondo lui, il nuovo arcivescovo italiano, a differenza di quello precedente che era austriaco, fa intervenire addirittura l'esercito, che provoca un morto e un sacco di feriti. E l'ho detto, quando i milanesi, per abbattere le entrate austriache, fanno lo sciopero del fumo, rifiutandosi di acquistare i costosissimi sigari austriaci, lui ne requisisce 30.000 e li regala ai suoi soldati, chiedendo loro di andare a fumare in maniera ostentata in mezzo alla gente e di costringere i milanesi a fumare. Per difendere un potere conquistato contro tutto e contro tutti, usa la forza invece della ragione. Ecco perché è destinato a perdere e a essere odiato da tutti. Ma forse anche per questo passa alla storia, perché è vecchio, è rimbambito, è stanco, ma non è stupido. Non lo è mai stato, il ragazzo. È lì perché ha saputo aspettare. La cosa che gli riesce meglio, e allora aspetta, immobile come un geco su un muro, finché il 6 agosto, pochi mesi dopo essere scappato, ritorna a Milano. E lì passa alla storia, perché il ritorno viene accolto con entusiasmo a Vienna. Tanto che il 31 agosto, Friedrich Pelikan, funzionario statale proprietario di un caffè Pavillon lungo il Danubio, organizza un grande festival in onore dell'armata austriaca in Italia e chiede al musicista di corte Johann Strauss di partecipare. E questo lo fa con una nuova composizione, una marcia imperiale piena di vitalismo patriottico, di crescendo ottimistico. La composizione ottiene un successo clamoroso, tanto da essere ripetuta più volte, e da allora migliaia e migliaia e migliaia di altre volte, fino a costituire la parte più gustosa dell'odierno concerto di Capodanno a Vienna. È la marcia di Radetzky. Qua c'è la scala. Sulla scala ci sono tante cose che si potrebbero dire. Vediamo un po' qua. Questo o quello? Questo o quello? Questo, dici? Questo qua, dai. Oh, nella storia della Scala ci sono un sacco di momenti indimenticabili, ma quello più storico e anche più commovente è quello accaduto l'11 maggio 1946. Il teatro è stato bombardato, praticamente distrutto, nella notte fra il 15 e il 16 agosto di 3 anni prima. I Lancaster inglesi avrebbero dovuto lanciare bombe su fabbriche e officine. Gli effetti collaterali furono la distruzione di chiese come Sant'Ambrogio e Santa Maria delle Grazie, della galleria, di una scuola a Gorla con decine di bambini che ci stavano dentro e che muoiono, di musei, ospedali e teatri, tra cui appunto la Scala. Le macerie vengono sotterrate in fretta, ma il buco resta. E i nazisti e i repubblichini non fanno nulla per sistemarlo, naturalmente. Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo la liberazione, pensa che sì, vanno risistemate le vie, le case, la rete idrica, ma la Scala va ricostruita, com'era e dov'era. È un simbolo troppo importante per lasciarla in decadenza. Chiama un amico, l'amico Antonio Ghiringhelli, che anticipa i soldi della ricostruzione di tasca sua e affida i lavori all'ingegnere Luigi Secchi, che si impegna a riconsegnare il teatro per l'aprile del 1946. Un lavoro da pazzi. Ma alla fine Secchi ce la fa. Il teatro è pronto. Pure il grande lampadario della platea è stato ricostruito e rimesso al suo posto. Manca solo il collaudo. E questo deve essere fatto dal direttore d'orchestra scelto per la riapertura, che è niente proprio di meno che Arturo Toscanini. Toscanini è un genio assoluto e grandissimo rompicoglioni. Se n'è andato dalla Scala sbattendo la porta nel 1903 perché non tollera di non avere potere assoluto su tutto. Manda a quel paese Ciano, genero del duce e ministro del fascismo, nel 1931, quando a Bologna, prima di un concerto, si rifiuta di far eseguire all'orchestra Giovinezza, Giovinezza. E perfino manda a quel paese Hitler in persona, non accettando il suo invito a dirigere l'orchestra al Festival Wagneriano di Bayreuth nel 1934. Cioè un tipetto che ha le idee chiare. Torna apposta dagli Stati Uniti, dove è in esilio nel 1939, e Secchi suda freddo il giorno in cui il maestro 79enne, alto, magro, secco, secco, imperioso, entra nel teatro per controllare l'acustica. Secchi si è portato in tasca una rivoltella. Memore del suicidio di Mengoni, architetto che ha creato la galleria, che si tolse la vita a causa delle critiche ricevute, ha deciso che farà lo stesso se Toscanini non accetterà il suo lavoro. Il maestro entra nel teatro vuoto, si posiziona in un punto preciso del palco, fa segno a tutti di non muoversi e poi batte una volta le mani, magari meglio di come l'ho fatto io. Il suono si propaga tutto intorno, perfetto e meraviglioso. Toscanini si apre in un grande sorriso. Eccola, questa è la mia Scala, dice. E Secchi tira un gran sospiro di sollievo. Qualche settimana dopo, l'11 maggio, appunto, la Scala riapre. All'interno 3.000 paganti, ma fuori è il delirio. Ghiringhelli fa mettere altoparlanti ovunque, perfino in Piazza del Duomo, così che la gente comune potesse ascoltare in una specie di prima diffusa, come oggi. La città si ferma, migliaia e migliaia di persone si radunano ad ascoltare e applaudono al termine di ogni pezzo. Il concerto dura un'ora, Toscanini fa eseguire brani celeberrimi come il coro del Nabucco, l'ouverture della Gazzaladra, il Tedeum di Verdi e fa esordire la 24enne soprano Renata Tebaldi. Toscanini non resta a Milano a lungo, se ne ritorna in America. Ghiringhelli e Secchi invece rimangono alla Scala, il primo come sovrintendente fino al 1972, il secondo come architetto conservatore fino al 1982. Scala, forza, via. 48. Scala? Ragazzi, non ce n'è. Beh, è interessante però perché la finale è Scala contro Rocktown. Non era mai successo. Bello, bravi. Siete un pubblico meraviglioso. Eh sì. Il 21 giugno del 1985, cioè 20 anni dopo il concerto dei Beatles, si apre l'estate dei miei 20 anni. Ahimè. Già da qualche anno San Siro non è più solo lo stadio dove Milan e Inter rincorrono una sfera di cuoio per coronare i sogni di 70.000 persone, ma anche un luogo dove altri sogni possono diventare realtà. Per esempio i sogni di chi si ammazza di canne in attesa di Bob Marley il 29 giugno 1980 e il suo reggae velato di protesta e di malinconia che suonerà per la prima e ultima volta in Italia. O di chi un mese dopo canterà insieme a Edoardo Bennato che, anche se alla fine sono solo canzonette, si può arrivare all'isola che non c'è, basta crederci. Questo per dire che lo stadio del calcio si è ormai aperto anche alla musica, con buona pace di chi è terrorizzato per il fatto che tutti quei giovinastri possano distruggere il sacro manto erboso. Non hanno tutti i torti. perché in effetti in quei primi anni pionieristici non si fa molto caso a questioni legate alla sicurezza dell'erba, che viene calpestata da decine di migliaia di persone, molte più di quanti normalmente affollino gli spalti durante una qualsiasi partita di rossoneri e nerazzurri. In quel solstizio d'estate del 1985 è previsto a San Siro il concerto di un americano tutto d'un pezzo, che da 15 anni circa racconta le difficoltà e le miserie del proletariato e degli esclusi con canzoni potenti, arrabbiate, ma piene di una vena sottile di speranza. Una specie di John Steinbeck del rock, idolatrato da gruppi di fans dappertutto, non solo negli Stati Uniti, ma che ha trovato pochi mesi prima il successo planetario grazie a un video in cui invita una ragazza sul palco a ballare. La canzone è Dancing in the Dark. Il disco si intitola Born in the USA e lui è Bruce Springsteen, also known as The Boss. Il Boss non ha mai suonato prima in Italia. Si favoleggia in Italia di concerti incredibili in palazzi dello sport europei, dove la musica si sente da Dio, mica come al Paralido, al Palasport, che non si capisce un tubo. Concerti che durano 3 ore e mezzo, e lui a darsi al pubblico come nessun altro, correndo, saltando, suonando, cantando, supportato da una band pazzesca, la E Street Band. Non ci sono video che lo testimoniano queste cose, sono cose che ci si dicono, ah, a Zurigo ha fatto 6 ore, quelle cose. Sono racconti clandestini di chi è scappato di casa, praticamente, in una fuga notturna per andarlo a vedere al Hallenstadion di Zurigo, per esempio, durante l'interminabile tour precedente collegato all'album doppio, The River. Io non sono un suo grande fan, ma il mio migliore amico, Marco, sì, che non è qua, ma è come se fosse qua, lui aspetta da anni quel momento, per cui mi convince un po' a malincuore a comprare il biglietto, che non costa poco per un universitario squattrinato, 20.000 lire. 20.000 lire? Vabbè. Adesso 10 euro sarebbero, no? Ok, bene. Ma sì, ma c'è l'inflazione, è vero, tutto diverso, sì, ok. Però cazzo. Vabbè. A me e Marco, tra l'altro, si accoda pure mia sorella. Inaspettatamente. Mia sorella ha 4 anni più di me. Io non la vorrei fra i piedi, le dico... Ok, se vuoi andare anche tu al concerto vai, ma non con me. Ma i miei mi dicono, se viene anche lei, state insieme, punto. Che cazzo. Lei, più comodosa del sottoscritto, vuole stare sulle gradinate, non sul prato. Tutto sommato sta bene anche a me. Conosco poco Springsteen, ma che vada, se mi annoio, almeno sono seduto, sono comodo. Non vedo praticamente nulla da dove siamo seduti. La cosa non mi piace. Il Boss esce alle 7:30. C'è ancora il sole alto. Mi piace ancora meno. Per me un concerto deve essere buio. Un palco illuminato. Bah. Il pubblico ovviamente è in delirio. Mio amico Mario, Marco, che è un gentiluomo, ha accettato di stare sulle gradinate con me, non sta più nella pelle. Io, pensando che forse ho fatto una cazzata, mi accendo l'ennesima sigaretta, che mi resta a penzolare dalla bocca però non appena parte la prima canzone. È Born in the USA. La conosco bene, mi piaciucchia anche, ma ragazzi, suonate in questo modo, io non l'ho mai sentita. Requisisco un binocolo dal mio vicino e riesco a vedere quello che accade laggiù in fondo. A ogni colpo la batteria sembra potersi distruggere. Bruce ci dà dentro come un matto, come se si fosse scaldato correndo per tutti gli spogliatoi e non vedesse l'ora di salire sul palco. La band suona e ride, si divertono come dei pazzi, si divertono, ma quasi c'è una novità però, cioè, in anni in cui il dettame è luxurioso, atmosfere dark e cimiteriali, questi ridono come dei matti. Da quel momento in poi ci saranno altre 27 canzoni, 3 ore e mezza di concerto per davvero, interrotte solo a metà da un breve intervallo durante il quale me ne frego della comodità e costringo mia sorella a scendere in mezzo alla folla del prato. Quanto a Marco, non ci può credere a vedermi così scatenato. Non conosco tutte le canzoni, anzi quando a un certo punto ne parte una e tutti impazziscono davvero, io chiedo umilmente a Marco: ma questa che cos'è, scusa? Lui finalmente perde il suo aplomb, si volta e dice: ma cazzo, è Born to Run! La conoscevo. Rimango estasiato a vedere quella botta di energia, mai vista, e anche a notare la scocciatura solenne di mia sorella, costretta a mischiarsi in mezzo alla plebe sudaticcia. Non sono diventato un fan di Springsteen dopo quel 21 giugno, no, ma forse ho capito qualcosa del significato di un concerto rock. Qualcosa che prescinde da quello che ascolti, ma che si basa su un senso di comunità e di appartenenza, che è quasi ancestrale, primitivo, quindi vero e sincero. Quella serata è memorabile per le sorti di Milano come capitale del rock, perché da quel momento in poi ogni rockstar farà gara per inserire Milano e possibilmente San Siro nei suoi tour, ed è ricordata non a caso dallo stesso Springsteen come una delle migliori della sua vita on the road. Va bene. Oh, allora. Va bene, l'ultimo. Oh. Allora, ricapitoliamo. La Scala si chiama così perché prende il nome di una chiesa, Santa Maria la Scala, Regina della Scala, moglie di Bernardo Visconti, bla bla bla. E va bene, va bene. Fin dall'inizio, però, il teatro diventa un luogo privilegiato. Anche perché sono i nobili ad averlo finanziato. Quindi diventa più o meno casa loro. Anche se nei primi 50 anni di vita vedrà le prime di artisti come Cimarosa, Cherubini, Rossini, concerti di Paganini in persona, i ricastri non ci vanno mica solo per vedere l'opera o i concerti. La platea, per esempio, viene usata anche per balli sfrenati, diciamo dei rave party, visto che vanno di moda ultimamente. Non so come fanno, forse tolgono le poltrone, ma veramente fanno dei, come dei matti, ballano nella platea. Ci ballano sopra forse, come il pubblico del Rocky Horror al Messico, non lo so. Poi i palchi diventano in pratica il salotto di casa propria, visto che sono appannaggio ognuno di una famiglia. Lì ospitano amici, incontrano persone, fanno le grigliate, fanno anche un po' di sesso sui palchi, ma sì, dai. Cioè, il concetto è chiaro, è roba mia, faccio quello che voglio. Addirittura nel foyer ci sono tavoli dove si gioca d'azzardo, compresa la famigerata roulette portata dalla Francia, dalle armate napoleoniche, e nel resto di Milano il gioco d'azzardo è vietatissimo. Forse perché così sono possibili adunate sediziose, assembramenti, ma lo stesso gioco d'azzardo, vietatissimo in giro, nei teatri invece è ammesso. Chi riesce a ottenere l'appalto per il gioco d'azzardo alla Scala, chi insomma organizza i tavoli del gioco del foyer e anche di qualche palco, è un tizio che si chiama Domenico Barbaia, che di teatro non ne sa un tubo, perché è un ex cameriere che ha fatto i soldi servendo per primo in Italia e forse nel mondo una bevanda a base di caffè e latte schiumoso, che chiama con il suo cognome Barbaiada, ma in realtà diventerà più famoso col nome di Cappuccino. Barbaia prende in gestione il caffè dei virtuosi a fianco alla Scala. Affascinato da tutta quella bella gente, entra a teatro e quando vede i tavoli da gioco va fuori di testa. Un po' gioca, avendo una certa dose di fortuna, spesso vince, e un po' pensa che la cosa migliore sarebbe potervi gestire quei tavoli in cui i ricconi passano il tempo libero fra i due spettacoli del teatro, uno pomeriggio e l'altro alla sera. Allora li chiede in appalto al comune e li ottiene. È 1805. Lui ha 27 anni, la sua vita cambia in un istante, perché ci sa talmente fare il Barbaia che diventa impresario, e non di teatri qualsiasi, il San Carlo di Napoli, il Teatro di Vienna dove c'è stata la première della Nonna di Beethoven e ovviamente la Scala, di cui è direttore per 6 anni consecutivi, dal 1826 al 1832, facendo debuttare a Milano Donizetti e anche la Norma di Bellini. Non sa nulla né di musica, né di arte, né di letteratura, né di architettura, né di economia. Eppure dal nulla diventa il principe degli impresari, grazie a un fiuto e una lungimiranza non comuni. E anche a un ovvio gran pelo sullo stomaco. Per dire, a Napoli lega con un contratto capestro l'astro nascente Gioacchino Rossini, obbligandolo con un salario da fame a rielaborare vecchie opere e comporne almeno 2 nuove ogni anno. Rossini poi gliela farà pagare fregandogli la fidanzata, vabbè, insomma. Dopo la direzione della Scala, Barbaia tornerà a Napoli, al San Carlo, abiterà in una mega villa a Ischia, ma al suo posto la Scala troverà un altro grande direttore, Bartolomeo Merelli, che nel 1842 convincerà Giuseppe Verdi che quella sua opera che ha appena scritto non è brutta, è discreta, cioè non sarà un capolavoro, ma è discreta. cosa mai? Insomma, sarebbe il caso di metterla in scena. Anche se il compositore non è convinto, cosa mi è venuto in mente? Che vuoi che gliene freghi alla gente dell'esilio degli ebrei a Babilonia? Stiamo parlando del Nabucco, ma questa è un'altra storia. Voilà. Signori, siamo giunti al momento conclusivo. Siamo giunti al momento più importante della serata, della settimana e forse anche della vostra vita. Ma su questo ho messo un forse davanti, perché non vi conosco così bene. E dunque, siete chiamati a un periglio, a un impegno fondamentale. Mi sembra un po' troppo, però va di moda essere. No, ultimamente va di moda. Per cui, insomma, dovete scegliere col vostro applauso qual è la storia più bella della storia di Milano. Ok? Pensateci, perché ne andrà del futuro della nostra città. Allora, abbiamo di fronte Teatro La Scala e Rocktown. Teatro La Scala e Rocktown. Cos'ho detto? Un applauso per il Teatro La Scala. E adesso un applauso per Rocktown. Sono 12 volte che ci provo, finalmente ce l'ho fatta. È la mia storia preferita. Signori, il Milano, capitale del rock, è la storia più bella della storia di Milano. Ed ecco lui che ce l'ha. Lui è il vincitore vero. Vi ringrazio tanto di essere venuti qui questa sera con questo tempo da lupi, di essere rimasti ad ascoltarmi. Lì c'è il banco di meravigli, qui ci sono io, lì ci siete voi, adesso scendo giù anch'io e bevo. Grazie, ciao. Dimenticavo che sennò poi Gabriele mi si incavola, Giacomo, perché Gabriele si incavola. Il 1° dicembre io sarò di nuovo qui a raccontare una storia molto diversa, si chiama La Tregua di Natale, e siamo più o meno a Natale, una storia vera accaduta nel 1914 nelle trincee tra Belgio e Germania. Se non vi sono piaciuto, sappiate che non sarò da solo, c'è un chitarrista molto figo e molto bravo, venite a vedere lui. Grazie.